Esatto. Ci si vuole comportare a per finire. Sì, queste praticamente sono le candidature complessivamente erano 58, se non sbaglio, quindi anche un bel numero di candidature. Da queste 58 candidature è stata creata una shortlist, quindi composta da 15, e successivamente a questi 15 artisti e artiste è stato chiesto di portare effettivamente le opere selezionate, che sono tutte queste, da cui è nata questa selezione più mirata su sfondo giallo. In realtà non è forse stato neanche facilissimo selezionare, per cui ci siamo poi dati dei criteri che sostanzialmente erano tre. Da un lato l'impatto visivo, quindi quanto l'opera effettivamente comunicasse, quello che è il primo impatto che ognuno può ricevere dall'opera. Dall'altro criterio molto importante, perché in tutte le opere era presente, è il processo. Quanto effettivamente, l'avete visto adesso nei racconti di Celestina, quanto processo c'è dietro, sia materiale, di tecnica, ma anche di concettuale, no? Di avanzamento dell'opera. E poi effettivamente anche ogni artista doveva presentare una descrizione, un racconto della propria opera, e quanto poi quello che effettivamente era scritto corrispondesse poi all'effetto visivo. E da qui è nata questa selezione dei vincitori e delle vincitrici. La cosa però bella, che io trovo veramente il valore aggiunto del premio, è il fatto che poi queste opere entrano nel circuito dell'Artoteca, perché permette a tutti noi di riprenderci in un certo senso questo patrimonio e di vivere l'esperienza dell'opera d'arte, che viverla in casa è diverso rispetto a viverla in una mostra, rispetto a viverla sul catalogo. Significa proprio avere la possibilità di entrare nell'opera d'arte. Magari ti chiedo veramente brevemente di spiegare, sì. Di raccontarci anche quest'opera, che effettivamente rispetto alle altre è un po' più antecedente. Sì, però è anche un'opera attuale comunque. Sì, è un'opera quando ancora usavo i materiali, usavo il colore, insomma, cioè non è, è un'opera pittorica, anche se a modo mio. E io ho lavorato, devo lavorare sull'acqua, quindi ho fatto 4 opere sull'acqua. In particolare il concetto fondamentale era quello, come avevo già detto, dell'oceano Mediterraneo, cioè iniziavano i primi naufragi, iniziavano i primi, insomma, i grossi movimenti un po', no? Che si notavano, gli sbarchi, gli spostamenti. Quindi volevo rendere il senso del buio dell'oceano, quello che poteva essere l'essere nell'acqua, insomma, completamente così, forse persi, smarriti. In questo caso voi vedete che poi, però ve lo dico dopo, prima vi racconto come è fatta l'opera. Allora, l'opera ha un fondo lontano, potrebbe essere, non si sa, però un cielo. Poi esiste una sorta di luogo, città, che sta a mezza, con poi un gessetto azzurro, che adesso poi è scomparso in fondo, sembravano come fosse una sponda, una riva lontana. Poi ho cercato di dare il senso della profondità e della distanza da quel luogo laggiù all'onda che arriva. E l'onda che arriva si infrange, ed è chiaro, ovviamente è difficilissimo fare un'onda, perché non è che si usa come dice il pennello, bisogna pensarla nei minimi particolari, preparare tutta la miscela di colore, farla giusta, se no non si indurisce. Deve avere, allora ci deve essere lo spruzzo chiaro, e con quel filino di azzurro che dà l'idea dello spruzzo, il buio sotto, perché l'onda, no, sopra è più chiara ma sotto è più scura. Quindi insomma questo è un lavoro di gran precisione. Poi nello stesso tempo, però, un'onda sola sarebbe stata non bella, ne ho messe due onde che portano a riva un naufrago. Vedete poi la figura quasi come se fosse posizione fetale di questa creatura avvolta nella terra, nella sabbia, no? Di questo nero, insomma, però è un corpo. Poi quello che queste due onde incrociandosi hanno dato, e a me è piaciuto moltissimo, questo non me l'aspettavo, è venuto un po', è stato questa sorta di testa di drago, però il drago onda, no? E allora mi è sembrato, come ho detto, un'onda pietosa, come una sorta di creatura del mare che porta a riva, che nel mare è naufragato morto, insomma. Quindi si chiama naufragio. È molto difficile tecnicamente. Sì. Questo bianco. Sì, perché otteneva poi tutte le il buio sotto, le gradazioni di bianco, no? Perché c'è un bianco solo, insomma. Sì, poi mi raccontavi che la tecnica della resina, no? Bisogna veramente studiarla nei minimi particolari, sì, sì, sì. E poi però alla fine lascia sempre un po' di inaspettato. E poi lascia inaspettato, si muove da sola, vive da sola, non si può fare niente. Cioè, una volta che tu l'hai calcolata al millesimo, poi reagisce come vuole, insomma, quindi nel meglio nel peggio. Certo. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie. La curiosità nei confronti degli altri, questi sono stati gli esclusi? E, diciamo, esatto, fanno parte della scelta comunque della shortlist, quindi della scelta comunque dei finalisti, e poi ovviamente questi sono stati premiati, ma esatto. Anche quelli sono stati scelti, esatto. Sono stati scelti, okay. E quindi anche trovo bella effettivamente l'idea di esporli poi tutti, che non solo sì. Comunque è sempre un giudizio sull'opera, no? Esatto. Sugli artisti, per cui era bello comunque sì, valorizzare. Questo c'è dietro comunque, diciamo, l'apporto che ogni artista ha dato con quest'opera, per cui noi presentiamo poi anche in ingresso una schedatura di tutti gli artisti. Oltre a questi sei che sono stati selezionati dalla giuria, valorizziamo anche il lavoro creativo anche degli altri che la prossima volta cominceranno più la giuria con un'altra loro opera. Sì, perché dipende anche tanto cosa l'artista decide di presentare rispetto al suo percorso. Ma credo che per voi sia stato, se siete voi della giuria, credo che sia stato molto difficile. È stato difficile perché poi ogni artista ha il suo percorso e quindi inizialmente valutavamo anche ovviamente il curriculum, il portfolio, eccetera. E poi ogni artista va presentato più opere anche, quindi a volte convinceva una mano, insomma è stato un po' però devo dire che ci siamo trovati anche bene nel lavorare assieme. È andata molto bene anche la scelta, sì. La condivisione un po' delle... Ed è stato interessante secondo me anche vedere, come dicevate voi prima, diciamo gli under 30, i più giovani, e anche la modernità forse in quelli che hanno più un percorso più storico, più consolidato, come anche Celestina, chi è in una transizione, poi si scoprono effettivamente come certi artisti che si conoscono in un certo modo, in realtà presentano opere che sono totalmente diverse, quindi capisci che c'è un'evoluzione. Per me è stato un modo anche per conoscere effettivamente lo stato adesso dell'artista stesso. Domanda a 100 milioni. Cosa dice dell'arte qui da noi? Beh, 100 milioni. La impersona è di Nardini, perché è la capo responsabile della collezione di Museion, quindi del Museo di Arte Contemporanea. Prego. Ma io, allora, secondo me ci sono dei giovani veramente talentuosi e qui sì, anche ci sono alcuni che hanno grande potenzialità. Ci sono poi degli artisti più storici che conosciamo, e se penso anche a quelli, adesso il prossimo anno per esempio Adolfo Lazza compierà 100 anni, e non possiamo fare niente, esatto. E non è male, ovviamente ogni tanto rimane un po' chiusa in se stessa, se devo essere sincera. Sì, immagino che ci sia anche un po' di provincialismo, come dice lei. Sì, no, ma però secondo me ci sono dei giovani veramente, adesso guardo qui, ma se vedo anche le opere di Linda Jasmin Meyer, sono veramente... Sì, che tra l'altro è la seconda volta che viene selezionata, ma c'è un motivo. Sì, entrerà anche in una mostra, adesso vabbè, lo anticipo tanto, a settembre al Museion. Ma anche sono tutte artiste e artisti che hanno alla base intanto uno studio accademico e anche universitario, insomma, importante. E poi si guardano molto all'estero, cioè si specializzano all'estero, guardano fuori, ma come anche adesso i racconti di Celestina sono molto interessanti, perché lì vedi anche l'umano che partecipa, non vedi soltanto la capacità, lì c'è proprio, quando lei parla di suo padre, insomma. Certo. Qui sotto sono le due under 30, questa fotografia, questa opera pittorica. Ma è interessante vedere un po'. E questa mi sembra invece un'opera molto matura. Sì, infatti è curioso anche quello. E tutte però sono molto, secondo me, infatti grande peso ha avuto questo aspetto del processo per arrivare all'opera, perché tutte veramente hanno una rielaborazione o tecnica oppure dei materiali o concettuale. Per cui direi che è un buon livello comunque. Bene, grazie a tutti. Grazie.